fare tutta la... Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazzi, noi siamo in diretta nel confessionale di Grande Sorella e voi siete con la Grande Sorella del Convento e sono io. Tu chi sei invece? Cili. Tu come ti chiami? Cili. Angelo. Cili o Angelo? Cili è il soprannome. Ah, Cili. E voi come vi chiamate che ridete? Andrea. Andrea. Io Andrea. Matteo. Andrea e Matteo. No, ragazzi, sono lucida, vedo che specificate i nomi con chiarezza, però sono lucida, che non me li ricordo tra due minuti. Il soprannome è Zambo. Zambo. Chiamami pure Zambo. Va bene. Grazie. Da cosa deriva questo soprannome? Io voglio sapere anche se. Dal cognome, Zambelli. Ah, ok. Invece il tuo? Sanca. Sanca, perché il cognome è? Sanca. Sanca. Detto, ma che fantasia però, Tu invece ti chiami con il suo soprannome qual era? Cili. Cili, perché il tuo cognome è Cili? No. No. Non lo sa neanche lui, però. Non lo so neanche io, ma il soprannome. Te l'hanno dato o te lo sei dato? È andato così, basta. Ah, ok. Allora, da dove venite, ragazzi? Vallio Terme. Vallio Terme, e state festeggiando un diciottesimo. Di Giorgia Lazzarini, precisiamo. Precisiamo, detta Lazzarini. Pisellorgia. Giorgia la Pise. Vabbè, glielo diremo, dai, che così come l'avete chiamata, va bene? Pise Love. Però ce l'ha un po' la faccia, no? Con la Pise Love? Sì, ce l'ha la faccia. Ma siete amici, cugini, cosa siete? Amici. Tutti amici? Noi due insieme dall'elementare. Ok. Da giro nido. E lui è stato un imbucato, l'avete trovato così per strada? Lui hanno più grande di noi. Lui si è imbucato. Si è imbucato. Alla festa. Era il playboy della serata, però, c'è da dire questo. Toy girl. Sono tutte sì. Questi qua hanno vergogna. Si innamorano tu. Ma perché devono avere vergogna? Loro hanno vergogna di qualsiasi cosa, no? Non si svegliano fuori. No, ma vi dovete svegliare, ragazzi. Dovete prendere esempio da lui. Guarda, lui da qui dentro. È qui dentro, ma sta corteggiando la signorina lì fuori. Tutta sua la ragazza lì fuori. Guarda, non la corteggio. Ma chi era la tua ex? Quella che c'era prima, la più bella della serata. Ma la stai sfottendo in questo momento? No. Il Desmo! È vero. Allora fammi vedere se la riesco a vedere. Quella col vestitino lungo. Quella col brillantini sul vestito. Io la vedo. Se mi fai capire chi è, io quella là. Quella là. Ah, prima. Quella più alta. Sì, quella lì che fa così con la mano adesso. Quella con la scollatura dietro. Sì, bella figa. E perché te la sei fatta scappare? Perché sono un coglione. No, perché te l'ha inculata l'altro. No. L'ho mollata e quando l'ho mollata dopo un mese si è messa con il mio amico. Ah, è stata rapida, come ti voleva bene però, esatto. C'è da dire questo. Esatto. Sentiva molto la tua mancanza, da dovuto rimpiazzare. Moltissimo. E voi invece siete single, ragazzi? Io mi sono appena lasciato, però ne ho già trovata un'altra. Ma che fai? Ma stai da solo, divertiti quest'estate. Vero, ci sto pensando. Un'altra palla al piede. No, ma stai da solo, ragazzi. Ve lo consiglio io che ho 25 anni, ma state da soli. Vedetevi bene prima della vita e poi fidanzate. No, guarda me, non guarda me. Ma tu senti? Tanto lui non è fidanzato. Fochino la Ceci. Mi sta sentendo. Si sta sentendo, ma non è fidanzato. Con la Ceci lì, con la Ceci? Può tardi, dimmi te come sta. Perché lui c'ha un'uscente molto bella. No, non sta uscendo con quel brutto coglione. Non ci sta sentendo, ma lei gli risponde subito. Lui risponde dopo 3 ore. Perché non è interessato. No, devo studiare. Lui è sotto, ma anche lei tanto. No, solo che l'ho handicappato. Lui è mongoloide. E cosa aspettate? Io voglio fare il bastardo. Ma se trovi quella giusta non puoi fare il bastardo. Esatto. Il bastardo, cioè, con chi puoi farlo è come ad esempio con lei avresti dovuto fare il bastardo. Io sono 4 mesi che mi sento con una fidanzata. Bravo, sei il top. Io sono stato 9 mesi con una vacca, ci siamo andati 4 volte. Mamma mia ragazzi, ma che scoop che mi date stasera. Siete fra... Quanti anni avete in tutto ciò? Ci arrivate a 18? Io ho appena compiuti. Io devo fare 19. No. Io a dicembre. È prossimo, dai, prossimo. Io devo fare 19. Si vede, c'è più maturo ragazzi. Si sente con la ragazza che è fidanzata. Non è vero. Si sta per lasciare. Si sta per lasciare, prossima. È già tua. Adesso lui sgama. Il fidanzato di lei sgama di lui e si lasciano, hai capito? A lui piace anche fare molto più piccoline. Hai una foto, fammela vedere. Sono curiosa. Faccela. Faccela a vedere la foto. Faccela a toccare. La foto, eh? Non ti emozionare. Wow. Ma è il più grande di te, però. No, piccola. Ah, però se l'hai scelta bene, c'è da dire questo. Allora, non è proprio così, l'abito è splendida. La vediamo altre tre foto. Dai, dai, non è brutta, però, ragazzi. Secondo me è splendida. Ti faccio vedere la mia ex. Dai, dai, sono curiosa, raga. Damiano, non te la faccio vedere, perché qua. Perché segui la sua ex? Sì, seguo chiunque. Damiano, non te la faccio vedere perché qua. Seguo anche te, se mi dici come si chiama. Va bene, ragazzi, do il mio Instagram, va bene? Grazie a me. Però mi devi accettare la richiesta e riseguire. Non ho la richiesta. C'è la libera. Vedi. Carina, no, è carina. Chi è delle tre? Tanto la società. Sì, avete bei gusti, però. Cioè, visto. Come ti chiami, giusto? Io come mi chiamo? Sorpresa. Dai, ormai dai, sei che ti cerco e mi cerco da sola. Andiamo a tutti di stasera. Stasera colpito, ha fatto proprio centro, ragazzi. Un cavallo da monta, diciamo. C'è lì. Guardate il debbo, sto per bucare. Hai anche DJ Carlone come amico, lo conosci? Sì, DJ del Plaza. Ma va, DJ Carlone è quello che abbiamo beccato giù al Mokai. Sì? Lì la domenica è qui a fa serata. Sì? Mm-hmm. Però la domenica non è per voi, raga. È più da MILF. È bello. Buono. Ma dove andate, ragazzi? Già rodata. Io ballo e basta tanto con le MILF. Con questi occhiali poi secondo me fai proprio un scasso, Kalind. È molto bella anche con la ragazza lì, con la gonnellina chi è, blu. Chi è? Carolina Andreasci. Sì? Molto bella. Vabbè, quella in parte, quella col vestito rosa. E la festeggiata, ecco, com'è la festeggiata? La festeggiata è molto alta. Ma è fidanzata già? No. Guardiamo se riesco a catturare. Ma non ve la filate proprio, però la festeggiata, ve lo devo dire. La conosciamo all'asilo nido, dai. Ah, vabbè, non siete una principessa, aspetta il principe azzurro. Ecco questa poi, che si è appena girata, è bellissima. Ah, sarà la mia prossima girl. Ma chi delle tre? La prima, la seconda, la terza? No, no, questa dritta, la più bella, che sorride. Sorridono tutti e tre. A sinistra col toppettino nero. La più bella con la quale io prima. Basta. Va bene, ragazzi, io vi saluto nel frattempo. Anche io la saluto. È stato un piacere con il vostro gossip. C'è anche lui che aspetta fuori. Sì, lui si chiama Jacopo Cenedella, soprannominato Schetenedra. Schetenedra? Anatra, Nedra. Perché c'ha le piedi, che fantasia. A c'è piede a pavo, no, vabbè, dopo questa. C'è piede a pavo. O Schetekai, perché. Ciao, ragazzi. Ciao. Me lo ricambi il follower, però.